mezzogiorno, mentre mangio insieme a lei. Io mi giro, guardo intorno, tutto finto tranne lei. Che tenero, non mi riconosco più, paranoico e nevrastenico, e non riesco neanche più a respirare come vuoi tu, a camminare come vuoi tu, come vuoi tu. Ma come devo fare? Dimmelo tu, perché non vivo più, non ce la faccio più. Quasi le telefono, faccio un urlo e butto giù, esco fuori in mezzo al traffico, esco poi non torno più. Sei un'anima, sì lo so che male c'è, ho bisogno di scappare anche da te. Respirare come piace a me e camminare come piace a me, poi ho voglia di sbagliare, che male c'è, dimmelo tu che non mi vedi più, ah, non mi vedi più. Ho voglia di sbagliare, ecco perché, perché non torno più, io non torno più.